con Francesco Raganato, regista del documentario Digital Life, in uscita in sala il 16 gennaio 2019. Francesco, ben trovato. Ci racconti di questo lavoro? Life è un film corale, collettivo, nel senso che è un film fatto da filmati presi dalla rete, o meglio, filmati che sono stati inviati da utenti della rete, quindi un film fatto di tante piccole storie che ci raccontano di come il digitale ha cambiato la vita delle persone protagoniste di queste storie, quindi non sono opinioni generiche, non so, generali su internet, sul digitale, ma storie molto precise in cui internet o il digitale sono intervenuti nella vita di queste persone in bene o in male. Ecco, che tipo di ricerca hai fatto in questo senso nella rete? Allora, la ricerca è stata difficile perché abbiamo mandato una prima, abbiamo creato un sito intanto che è digitallife.org e da questo sito abbiamo mandato varie chiamate nella rete, cioè varie proprio racconta. Abbiamo fatto una raccolta di video chiedendo alle persone raccontateci la vostra storia. Sono arrivate tantissime storie. Purtroppo quando si parla di digitale ancora c'è una sorta di, come dire, di adolescenza in corso, nel senso non sappiamo bene cos'è il digitale, cos'è internet, perché lo abbiamo appena scoperto parlando in termini storici. Quindi il 90% delle storie che arrivavano erano del genere internet mi ha cambiato la vita perché con Google Maps posso arrivare ovunque, oppure con le app posso fare le cose che prima non facevo niente. C'era un 10% però di storie in cui si diceva che internet ha cambiato la mia vita perché a un certo punto per colpa di internet ho perso il lavoro, però poi grazie a internet ne ho trovato un altro. C'era questa discrepanza un po' di percentuali di una marea di storie un po' tra virgolette opinabili, insomma, un 10% di storie molto interessanti e poi sono andate a finire nel film. Sono tante le storie raccolte, ho avuto modo di vederlo, insomma è un quadro abbastanza complesso. Dei 300 e passa video arrivati, cioè già 50 storie circa arrivate, una cinquantina sono finite nel film. Abbiamo scelto storie emblematiche, ovviamente, alcune erano molto abbiamo fatto anche un lavoro di selezione, ovviamente. Ho scelto le storie, però avendo un occhio abbastanza ampio, cioè abbiamo voluto parlare di lavoro, di salute, di viaggi, di sentimenti, di ritrovamenti, di casualità, insomma, abbiamo voluto fare un discorso molto molto ampio. Che impressioni ne hai ricavato? Impressioni? Come ti dicevo prima, noi, in cui io mi includo, e includo anche molte persone che usano internet tutti i giorni, stiamo vivendo una specie di adolescenza digitale, cioè abbiamo in mano uno strumento potentissimo, ma ancora non abbiamo la patente per guidarlo, nel senso che ho usato la macchina potente prima di prendere la patente. Siamo cioè, vogliamo correre, ma in realtà non dovremmo correre, dovremmo rispettare i segnali, in realtà non li rispettiamo, qualcuno sta male, qualcuno no. Quindi c'è una grande ingenuità ancora nell'usare il digitale, che è l'ingenuità propria dell'adolescenza. Dal punto di vista territoriale, da dove provengono la maggior parte delle storie? Dal punto di vista territoriale, per ovvi motivi, molte storie sono italiane, perché comunque la community che ruota intorno a Varese News, che è il produttore di questo film. Il Varese News è un giornale, una testata online locale, appunto localizzata nella provincia di Varese. Loro hanno una rete molto molto forte di contatti, quindi diciamo l'epicentro è Varese, poi si irraggia in tutta Italia. Abbiamo avuto anche storie dall'estero, dal Brasile, dal Nicaragua, insomma, lontane, italiani all'estero. Per l'Italia, dal nord al sud, dalla città alla provincia? Dalla città alla provincia, dal nord al sud, da piccoli paesini sperduti nel delta del Po, a Roma, a Milano, a Palermo, insomma, sono storie veramente che raccontano un'Italia a 360 gradi. Tipo di percorso farà il documentario? Allora, come immagini, il documentario in sala non ha generale, il documentario in sala non ha Sì. una grande vita, una vita lunga. Per questo abbiamo pensato di fare una finestra di uscita in sala mirate per 3 mesi, quindi fare un po' di città, città, partiamo da Milano il 16, poi andremo a Roma il 22, il 23 Varese, e poi anche altre città e paesi italiani che man mano si stanno aggiungendo. Quando dico man mano si stanno aggiungendo, vuol dire che la distribuzione la stiamo curando noi in prima persona, cioè per il produttore del film che si è preso carico di chiamare tale e dire: abbiamo questo film, vi interessa? Sì, allora lo facciamo. Quindi una sales distribution. Poi dopo questa prima fase il film tornerà nelle mani di Rai Cinema, del produttore del film, e poi farà il percorso di Rai Cinema, immagino, e avrà un percorso di esecutivo. Ci lasci tutti i riferimenti web per seguirlo? Ok, allora la pagina Facebook è Digital Life, il film, e il sito è www.digitallife.org, il mio Instagram è Francesco Raganato, tutto attaccato, e insomma ci potete seguire Varese, ovviamente Varese News, il sito di Varese News darà ampia notiziabilità del mio documentario, e questo, ci vediamo il 16 a Milano, alle 19.45 nella sala del Cinema Anteo, e il 22 a Roma alla sala 13. Allora, ricordiamo l'uscita in sala del film documentario Digital Life di Francesco Raganato dal 16 gennaio 2019 nelle sale. Un saluto e un ringraziamento al regista. Francesco, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie mille, a presto, grazie.